questa sera no, io non so più cantare, muore in un singhiozzo la mia voce, più non sa la dolce canzone che un dì sospiravo a te vicino. Troppo amara è la mia vita, più non c'è speranza in me, ogni gioia è ormai svanita, il mio mondo vive di te. Io non sapevo che cosa fosse il pianto, queste prime lacrime mi fanno.